si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati con Si Può Fare, buongiorno da Alessio Maurizi, staremo insieme sino alle 10, cominciamo subito intanto con lo svelare, la parola chiave per il gioco di questa settimana, inviati cercasi, la parola chiave per le buone notizie è... cultura, cultura, cultura. Se avete buone notizie che riguardano il vostro quartiere, la vostra città, la vostra regione, che riguardano il cinema, il teatro, i libri, la musica, insomma il possibile volano anche economico per una ripresa italiana, chiamateci, scriveteci alla mail si può fare at radio24.it. Avete tempo fino a mercoledì per segnalarci le vostre buone notizie. Potete trovarci anche sui nostri social network, ve le ricordo, su Twitter l'account è @sipoffare24, mio @LeMaurizi, siamo anche su Facebook, si può fare, _radio24, avete tempo sino a mercoledì. Sabato prossimo il racconto più bello sarà fatto da voi in diretta e questa settimana invece raccoglieremo l'invito a intervenire sul tema della legalità. Sentiremo il nostro inviato alle 9:15. Adesso andiamo ad iniziare. And now, the good news! Allora, la nostra buona notizia per iniziare con il buon umore la mattinata è questa. Questa volta si tratta di un progetto che riguarda il sud e in particolare Caserta. Caserta è il più grande parco urbano al mondo dedicato allo spazio. È un progetto che c'è da un po' di tempo, ma la notizia è che si arricchisce di nuovi partner. Il progetto per realizzare in Italia uno dei più grandi parchi urbani al mondo dedicati allo spazio. Il progetto punta a realizzare a Caserta un parco tematico con spazi verdi, un'area con installazioni leggere di divulgazione scientifica e le attività correlate sui modelli della città dello spazio di Tolosa o del Kennedy Space Center di Orlando in Florida e nuovi partner che si aggiungono alla comitiva che è fatta dal Distretto Aerospaziale Campano, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Telespazio, il Planetario di Caserta, l'Associazione Italiana per gli Studi sullo Sviluppo Locale. Ci sono dentro adesso anche la Confindustria di Caserta e speriamo che questo progetto diventi presto realtà. Ma noi stiamo sempre lì a aspettare, a verificare, a monitorare che queste buone notizie, che spesso sono degli annunci, come in questo caso, annunci sostenuti da vari progetti, tutto quello che volete, che poi diventino realtà. Non vi preoccupate che staremo lì a controllare sul fiato, con il fiato sul collo a chi fa questi annunci. Ma di cosa si occupa invece i giornali di oggi? Beh, naturalmente dell'Ucraina, di questa vera e propria guerra civile che ormai è scoppiata, è guerra vera, ci sono due elicotteri abbattuti, ci sarebbero delle perdite anche tra i filorussi. Ieri c'è stato un vertice tra Obama e la Merkel, parlano di questo i giornali, poi parlano anche dei progressi fatti dal decreto lavoro in commissione lavoro del Senato, dove ieri, nonostante il ponte per il 1° maggio, si lavorava, l'unico ramo del Parlamento aperto, il Senato, dove si lavorava per quanto riguarda la commissione. E poi ancora gli strascichi per quanto riguarda le polemiche sul famoso bonus da 80 euro, le critiche di Piero Pelù, vediamo. Allora, Corriere della Sera, titolo principale: Ucraina, primi atti di guerra, i filorussi abbattono due elicotteri a Odessa, decine di vittime, ma il governo di Kiev dice morti molti tra i ribelli Putin, così sono stati violati gli accordi di Ginevra. Per quanto riguarda invece un'altra vicenda estera, quella siriana, che ormai ci siamo assuefatti a quello che sta succedendo in Siria, due fotonotizie sul Corriere: le crocifissioni e le fughe in massa, il dramma senza fine della Siria, gli uomini crocifissi, le violenze sui cristiani, le paure delle minoranze e la campagna elettorale del presidente uscente Assad. Situazione drammatica in Siria. C'è appunto un uomo inginocchiato, incappucciato, e che probabilmente verrà crocifisso. Il Papa, ho pianto davanti a quelle immagini. E poi l'altra notizia, l'altra fotonotizia è quella che riguarda i profughi, riguarda le nostre città, l'Italia, Milano, l'esodo dei profughi che chiedono aiuto alla stazione di Milano. Vengono dalla Siria, sono gli ultimi arrivati alla stazione centrale di Milano e la notte l'hanno passata qui, nel largo del mezzanino. Le strutture di accoglienza sono al collasso e l'afflusso ha preso un ritmo così intenso che il comune non sa più come fare. E se non sa come fare il comune di Milano, figuriamoci gli altri. Dicevamo, allora, intanto Repubblica, lavoro, così cambia il decreto, gli 8 emendamenti del governo, salta l'obbligo di assunzione, 80 euro lo sconto sulla copertura, e questo per quanto riguarda il decreto IRPEF. Sul discorso invece della riforma della pubblica amministrazione, la protesta dei prefetti, scrive Repubblica, smantellare le sedi è una coltellata alla schiena. Il ministro Madia è soddisfatta perché ci sono già 3.000 email che sono arrivate per riformare la pubblica amministrazione, però sul tema della chiusura delle prefetture, degli accorpamenti eccetera, c'è un'intervista al prefetto di Rimini che dice: noi sentinelle contro le mafie del nord, lo Stato che sguarnisce se stesso è una scelta schizofrenica, soprattutto se fatta nel momento in cui si avverte un maggiore necessità di sicurezza pubblica. È facile individuare le mafie al sud, più difficile al centro-nord. C'è la mafia a Rimini? Chiede l'intervistatore. Il prefetto risponde: certo, ma qui è più difficile da individuare. Può fare un esempio: abbiamo monitorato 200 cambi di proprietà di società alberghiere e abbiamo scoperto che 12 alberghi sono stati comprati da Camorra e 'Ndrangheta. Mi domando, se non ci fosse stata la prefettura a coordinare gli accertamenti, chi si sarebbe accorto di questa infiltrazione di capitali mafiosi? La criminalità oggi è dappertutto. L'allarme dunque dei prefetti sulla questione del taglio delle sedi. A proposito invece di un'altra questione, quella del possibile ingresso di Marina Berlusconi, che ieri il padre Silvio ha ventilato in politica, e la prima volta forse che Berlusconi ne parla, dice: l'ho sconsigliata ma è un'ipotesi. Lei stessa, Marina, aveva detto: non adesso, chissà in futuro. L'intervista di Michela Biancofiore è entusiasta. Berlusconi con Marina non lascia, raddoppia. Marina sarebbe la naturale continuazione del berlusconismo, che per me è una filosofia dell'anima. Per noi forzisti della prima ora è la persona più indiscutibilmente leale sulla quale rigenerare il nostro movimento nello stile del 94. Ma così non sarebbe una dynasty? Gli chiede il giornalista. E qua devo dire che Marina, Michela Biancofiore dice una cosa, ahimè, mi vuole dare la ragione, perché non per lei, ma perché lei dice: nella più grande democrazia liberale degli Stati Uniti si perpetuano da sempre dinastie politiche, pensiamo ai Kennedy, ai Bush, ai Clinton. E ha ragione, e purtroppo è vero, è una buffonata anche in America, secondo me, e lo sarebbe anche in Italia. Però se parliamo di questo, certo, gli esempi illustri non mancano in giro per il mondo di dinastie familiari. Ci fermiamo qua, rassegna stampa europea, giornale radio, tra una ventina di minuti circa, forse anche di più, quasi mezz'ora, torniamo, apriamo anche il numero verde 800 24, andremo al Festival del Giornalismo di Perugia dove c'è il nostro Carlo Gabardini, e poi risentiremo Rossano Ercolini, premio Nobel per l'ambiente l'anno scorso, con una nuova importantissima iniziativa. A più tardi. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. Staremo insieme sino alle 10, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Potete commentare quello che sentite, potete raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana. Come ogni weekend mettiamo in palio per i racconti più belli i biglietti per la mostra di Gustav Klimt a Milano. Riprendiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi le nostre buone notizie e gli approfondimenti. Andremo al Festival storia del giornalismo, dove c'è il nostro Carlo Gabardini. Poi risentiremo Rossano Ercolini, il maestro di Capannori, vincitore del premio Nobel per l'ambiente l'anno scorso, con una nuova importante iniziativa, un viaggio in giro per l'Italia a caccia di aziende virtuose in tema di rifiuti. Ma riprendiamo a dare appunto un'occhiata alle prime pagine dei giornali per completare questa rassegna mattutina del weekend. Tema lavoro. Sapete che ieri si è riunita la commissione lavoro del Senato. Il governo ha portato degli emendamenti al decreto legge lavoro del ministro Poletti. E scrive il Sole 24 Ore: sui contratti a termine sanzioni solo pecuniarie, sull'apprendistato vincolo a partire da 50 dipendenti, accordo tra governo e maggioranza sulle modifiche al decreto lavoro, concordati 8 emendamenti al testo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Per esempio, per quanto riguarda le sanzioni per le aziende, si passa dall'obbligo di assunzione ad una multa, si ammorbidisce la sanzione per le imprese che superano il limite del 20% dei contratti a termine sul monte totale dei contratti. Al posto della stabilizzazione di questi contratti che sforano, scatterà un indennizzo pari a un quinto della retribuzione se lo sforamento riguarda un solo lavoratore. Se riguarda più lavoratori, invece la sanzione sarà pari al 50% della retribuzione. Altra modifica: il tetto del 20%, anche qua delle stabilizzazioni per l'apprendistato, sarà applicato alle imprese con più di 50 dipendenti e non più con 30 dipendenti. Quindi viene alzato il tetto, diciamo la dimensione aziendale per la quale si applica la necessità di stabilizzare il 20% degli apprendisti. Queste sono alcune delle modifiche, le più importanti forse. Il commento di Carlo Tucci sul Sole 24 Ore è questo: sia gli ultimi dati Istat che le prime evidenze INPS parlano di un mercato del lavoro che si sta muovendo, una congiuntura positiva che va accompagnata con regole più semplici per incoraggiare le aziende ad assumere. In quest'ottica, l'introduzione di una sanzione pecuniaria al posto della stabilizzazione per chi supera il nuovo tetto del 20% di utilizzo dei rapporti a tempo determinato è sicuramente un passo avanti, come anche la conferma dell'allungamento della acasualità, cioè della mancanza di una indicazione di una causa precisa, per un periodo da 12 a 36 mesi per i contratti a termine. Quindi sono, diciamo, modifiche che il Sole 24 Ore giudica positivamente. Il Giornale invece ha un punto di vista opposto. Secondo il Giornale è Alfano che prende la tessera della CGIL. Riforma del lavoro, il titolo del Giornale: Alfano prende la tessera della CGIL, nuovo centrodestra voterà la legge scritta da sindacati e Partito Democratico. Forza Italia: niente tasse a chi assume. Ma le modifiche di ieri, presentate ieri, sono frutto di un'intesa tra il Partito Democratico e Nuovo Centrodestra e Scelta Civica. Le modifiche sono quelle che abbiamo appena sentito. Su un'altra questione economica, quella del bonus di 80 euro in busta paga, il Fatto Quotidiano scrive: 80 euro, mancano le coperture. Doccia fredda dei tecnici del Senato, inferiori al previsto le entrate, la lotta all'evasione, IRAP e IVA, dubbi di costituzionalità anche sulle quote di Banca Italia. Ieri abbiamo appunto appreso che i tecnici del Senato sono a lavoro per valutare le coperture di questo bonus da 80 euro che costerà diversi miliardi di euro e insomma, sul quale c'è ancora un po' un giallo su questa questione delle coperture. Altro tema che riguarda il lavoro è quello che ci ricorda il Corriere della Sera oggi in prima pagina, cioè il famoso piano Garanzia Giovani, piano europeo che però ha una declinazione italiana che dipende dal governo ma soprattutto dalle regioni. 1 miliardo per i giovani, bloccato da 13 regioni, scrive il Corriere della Sera. Rinviato da gennaio a maggio, il piano non decolla. Garanzia Giovani sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro dal governo per inserire, d'intesa con le regioni, giovani dai 15 ai 29 anni nelle imprese di 13 regioni, però su 20 non c'è sinora la firma, bloccati oltre 900 milioni. Se ne occupa anche La Stampa, che scrive così: la campagna di comunicazione non è ancora decollata, il sito ufficiale continua a mostrare qualche pecca, eppure qua diciamo la visione è un pochino più ottimistica, quella della stampa, eppure la garanzia giovani parte con il piede giusto, almeno per quanto riguarda i ragazzi. Sono 2633 quelli che fino ad oggi sono iscritti tramite i portali delle regioni, altri 4914 sono affacciati durante le prime 24 ore ufficiali del programma che ha debuttato il 1 maggio. Una goccia nel mare se si pensa che tra disoccupati e scoraggiati, giovani in difficoltà sono oltre 2 milioni, ma anche un segnale di speranza. Il piano nazionale, a differenza degli altri paesi europei, in Italia il tetto è stato fissato non a 24 anni ma a 29 anni, quindi abbiamo un bacino più ampio, perché il nostro mercato del lavoro tra i giovani è messo peggio. Cosa devono fare i giovani interessati? Andare sul sito www.garanziagiovani.gov.it e iscriversi e basta. Però gli analisti avvertono: il rischio paralisi è altissimo, molte delle risorse a disposizione sono state spese per la messa a punto del portale, appunto, e ad oggi sono state firmate convenzioni soltanto tra il Ministero del Lavoro e l'Emilia Romagna, la Valle d'Aosta, la Sardegna, il Lazio, il Veneto. Il programma sta decollando anche in Umbria, Sicilia, Campania, Puglia, Friuli e Venezia Giulia. Insomma, di fatto però ci sono oltre 10 regioni che non hanno mosso un dito e stanno bloccando quasi 1 miliardo di euro che invece devono servire per aiutare questi giovani a trovare un lavoro. Altro tema sui giornali di oggi è quello dell'Alitalia. Ce lo ricorda Il Messaggero: Alitalia Etihad, ecco il piano, una new co posseduta al 51% dalla compagnia aerea italiana e dal 49% dagli arabi, che rileverà tutte le attività sane. Invece parte dei debiti finanziari, gli esuberi, le vertenze legali finiranno in una bad company. Questa cosa della bad company, che si becca tutti i debiti, che non si sa dove vanno a finire, l'abbiamo già sentita, però in quel caso anni fa, quando si è passati attraverso il passaggio dal pubblico alla famosa cordata di imprenditori italiani, si seppe chi è che si beccò i debiti, cioè se li beccarono i contribuenti, lo Stato. Adesso come andrà a finire? Beh, già, vediamo cosa scrive Il Messaggero. Un matrimonio, quello tra l'Italia e Etihad, che sembrava in crisi ancora fino a ieri, ma che resta miracolosamente in pista, perché ieri in un vertice tra i soci industriali e le banche è spuntata l'idea che ha messo d'accordo tutti: la creazione di una new co, 51% in mano alla CAI, 49% in mano ad Etihad, che darà vita a quella che possiamo chiamare Alihad, scrive Il Messaggero. La new co si prenderà voli, slot e dipendenti necessari all'operatività della compagnia. Per dare sprint ci sarà un'iniezione di capitale, 560 milioni di euro, messi anche dai soci italiani, 200 milioni, e anche per far fronte alle perdite. Nella bad company invece finiranno, in uno schema già utilizzato in passato proprio per l'Italia, la maggioranza dei debiti bancari, una buona fetta degli esuberi, 3.000 dipendenti, e i rischi finanziari legati al contenziosi legali fiscali aperti. Ma quello che pesa sono i 2 miliardi di euro di debiti, il macigno, scrive Il Messaggero, da 2 miliardi di euro che zavorra il volo degli italiani. Circa 2 miliardi di euro, forse anche qualcosa di più se si considerano gli ultimi 3 mesi del 2013, sui quali mancano ancora numeri ufficiali. L'ultima fotografia aggiornata del fardello del debito fornita dalla stessa Alitalia non è poi così lontana dall'allarme lanciato a novembre 2008 da Augusto Fantozzi, ultimo commissario straordinario che ha conosciuto la compagnia di bandiera prima dell'operazione CAI Air One. Ma fa un po' impressione trovarsi come allora di fronte a un debito che si aggira intorno ai 2 miliardi di euro, cioè sono passati 6 anni dal passaggio appunto dall'Italia alla CAI, dalla mano pubblica alla mano semi-privata, ma i 2 miliardi di euro di debito ritornano e, ripeto, questa volta non è chiaro che fine faranno questi debiti, perché l'altra volta se ne fecero carico i contribuenti, questa volta non si sa. Fatto sta che questo è il piano che sarebbe stato messo a punto dai soci industriali d'accordo con gli arabi e dalle banche, appunto una gnocco per rilanciare l'Alitalia. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco, 800 24 00 24, cominceremo con i nostri approfondimenti, a tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. About a guy you wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over, and then shh, it's nice and quiet. Con questo inno alla quiete di Bjork vogliamo parlare della quiete mancata di chi subisce gli eccessi della movida, perché è un problema anche questo. Con la bella stagione torna la voglia di uscire e andare la sera nei locali, ma nelle città italiane, lo sapete, c'è sempre il problema dei rumori molesti, gli eccessi della movida che disturbano la quiete dei residenti. A Roma il consigliere del PD Orlando Corsetti ha invocato la presenza dell'esercito per limitare i vandalismi legati proprio alla vita notturna, mentre a Genova i comitati di quartiere, d'accordo con le associazioni dei commercianti, hanno dato vita a un'idea originale: il premio Buena Movida da assegnare al locale più rispettoso delle regole, insomma, è anche del quieto vivere di chi abita nei paraggi. Una soluzione per tutti questa potrebbe essere, c'è un modo per incentivare i locali più corretti, ne parliamo con Furio Truzzi, che è il presidente di Asso Utenti di Genova. Buongiorno. Eccoci, buongiorno a voi. Intanto chi si è aggiudicato il premio votato dai cittadini del centro storico di Genova Buena Movida? Se l'ha aggiudicato i Giardini Luzzati, un locale che è retto da un circolo, sì, che sono molto presenti nella movida genovese e che a poche lunghezze da altri due bar è riuscito a prendere il primo premio per i suoi modi di porsi, per la sua capacità di coinvolgere, di divertire, di fare anche musica, ma di essere molto sensibile alla necessità anche dei residenti e quindi di saper conciliare, certo, il diritto al divertimento col diritto al riposo. Allora, io appunto ricordo i Giardini Luzzati, per i genovesi che sono all'ascolto e che magari vogliono intervenire per commentare, per dire se sono d'accordo, se condividono, se conoscono questo locale, 800 24 00 24. Poi, per dovere di cronaca, diciamo, mi corregga se sbaglio, leggo dagli articoli della cronaca locale che ne hanno parlato, il secondo locale Cantine del Conte, il terzo Britannia. Sì, esatto, questi sono i primi tre. C'è anche da dire che c'è stata una notevole partecipazione, anche varietà, sono ben 36 locali, anche quelli che hanno preso un voto. Ad esempio ne cito uno storico di Genova, che è il Bar Moretti, che ha preso un voto e che decisamente, se avessimo dovuto rovesciare la lista e fare una blacklist, probabilmente avrebbe vinto per il modo che ha di porsi su alcuni argomenti. Tuttavia lo scopo di questa votazione, che ha coinvolto esclusivamente i residenti, sì, è stato quello di far capire che è bene condividere con il quartiere la presenza di questi, sì, locali, ecco, di non vederli come dei nemici, ma di vederli come luoghi di attrazione di giovani che sanno proporsi in un modo sano nel divertimento, perché il nostro problema era appunto parlare di buona movida, di combattere, per così dire, la cattiva movida, lo spaccio alcolico, comportamenti negativi, e invece premiare il divertimento anche, sì, in zone storiche come sono appunto i centri antichi delle nostre città. Ecco, io nella mia piccola esperienza, per esempio a Milano, confermo, qualche sera fa ero in una enoteca di via Sarpi, una notissima enoteca storica, e il proprietario ci raccontava come lui riesce ad andare d'accordo con tutti nel quartiere perché rispetta degli orari abbastanza regolari di apertura e di chiusura. Quando c'è qualcuno che fa il furbo e fa confusione, fa casino o vola volano le bottiglie, è lui il primo ad uscire in strada a fermare diciamo gli eccessi, e quindi diciamo gode di un ampio riconoscimento da parte degli abitanti della zona, che sono tranquilli perché sanno che lui è il primo a vigilare. Cioè, è questo il modello di locali che possono tenere un po' a bada questo problema della movida, che d'estate soprattutto comunque esiste, ci sono delle norme da rispettare. Questi locali che si sono messi in luce, hanno avuto più voti, magari saranno stati tutti parenti del titolare, non lo so, però che tipo di strategia hanno adottato per avere questa capacità di integrarsi nel tessuto del quartiere senza creare invece disturbi? Ma sostanzialmente come l'Enoteca di Milano, innanzitutto hanno esercitato una forte capacità di ascolto nei confronti del quartiere, per cui quando qualcuno si lamentava per la musica troppo alta o per lo schiamazzo, non alzavano le spalle, giravano la schiena, ma si adoperavano in una grande funzione di ascolto, e poi appunto nel controllo dei propri avventori, che vi assicuro è un ulteriore lavoro per chi gestisce un locale dentro la movida, perché come appunto ognuno ha ben presente le immagini in queste sere che si fanno sempre più miti e tiepide, e non solo, a volte si riempiono proprio le strade e le vie, quindi assistiamo come se ci fosse una grande assemblea in pieno giorno, se non che con i rumori della notte tutto ciò diventa fastidioso, e quindi la capacità di coloro i quali gestiscono i locali di interporsi, di guidare, di far divertire, ma di stare attenti anche al diritto a riposo è fondamentale, per cui quello che sta emergendo sempre di più è che esiste un problema che è il dopo movida e non la movida in sé, sul quale vale la pena di riflettere. Forse è qui che le istituzioni dovrebbero intervenire, perché se si lavora insieme con chi gestisce i locali si riesce a governare il fenomeno, e il problema invece succede dopo. So che diciamo alla premiazione del premio Buena Movida c'erano anche i rappresentanti delle associazioni dei commercianti. Questa iniziativa però che portate avanti voi di Assoutenti insieme a chi? Ai comitati di quartiere, ma anche alle stesse associazioni dei commercianti, cioè come vi vedono voi che date appunto le patenti ai locali? Cioè c'è collaborazione o c'è un po' di sospetto e di diffidenza da parte dei gestori? Ma diciamo l'uno e l'altra, c'è una lunga tradizione, ecco, non abbiamo incominciato oggi. Innanzitutto c'è da dire che la coniugazione di questi diritti, divertimento e sonno, partono anche dall'idea delle associazioni dei consumatori del quartiere. Dei consumatori perché sono intervenuti in perfetta armonia con le associazioni dei commercianti sul discorso del bere, perché l'educazione al bere è un problema forte della movida, torno a ripetere, la minaccia alcolica è dietro ogni angolo, e quindi, come dire, è giusto divertirsi ma farlo con lucidità. Dopodiché hanno accolto, direi, con entusiasmo questa cosa, tant'è che l'idea, perlomeno a Genova, è quello di fare un premio Buena Movida Summer, o comunque di farlo in maniera molto più diffusa e non spontanea, come abbiamo fatto insieme ai comitati e alle associazioni del quartiere che si sono organizzati in una federazione, e forse, visto che Radio 24 ha colto al volo questa idea, ci viene in mente di fare un premio Buena Movida che magari non sia solo di Genova, ma che giri un po' per l'Italia, proprio perché il coordinamento delle movide sono un po' in collegamento tra di loro. I nostri di Genova parlano con i vostri di Milano, di Bologna, di Torino. Era proprio questa la domanda, Truzzi, cioè il prossimo passaggio potrebbe essere questo, cioè di crescere intanto a Genova, una città importante, di far decollare il premio Buena Movida anche in altre città, perché questo potrebbe essere un modo davvero far dialogare i cittadini con i gestori dei locali, premiando i più bravi, i più virtuosi, creando quindi modelli da seguire e mettendo magari invece in un angolo chi non rispetta le regole, chi lascia che nel suo locale succeda di tutto, eccetera eccetera. Cioè, anziché acuire, diciamo, lo scontro classico tra chi vuol dormire e chi vuol fare festa la sera, premiare chi riesce a coniugare le due cose. Noi siamo a disposizione perché questa era proprio per amplificare, la nostra intenzione, ecco, con i commercianti, con le loro associazioni abbiamo cercato da lungo tempo di fare un discorso, e forse abbiamo trovato finalmente la chiave giusta, cioè dire: se tu fai una cosa che mette insieme i due diritti sei veramente da encomiare, quindi è giusto premiarti, metterla anche sotto questo profilo, e invece piuttosto che fare blacklist o altre cose che si commentano da sole, perché è chiaro che ci sono aree di sconfino ma torno a ripetere, se siamo insieme ai commercianti lo si può fare meglio, ecco, quindi consumatori, commercianti e residenti sono una formidabile occasione per poter colorare di tanti colori la movida e far divertire ma anche rispettare il quartiere. Grazie allora Furio Truzzi, gli assolutenti di Genova, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. 800 24 00 24, cari ascoltatori, avete sentito che cosa è accaduto a Genova, il premio Buena Movida. Tra l'altro, oltre a commentarlo anche da altre città, l'ipotesi di come dire, di premiare i locali migliori, va da sé, è un'ipotesi che può piacere. Può servire questa cosa secondo voi a incentivare comportamenti corretti? E poi, amici all'ascolto di Genova, vi torna che i locali Giardini Luzzati, io ripeto i nomi perché sarebbe interessante anche avere un riscontro, Cantine del Conte e Britannia siano tre locali che si sono distinti proprio per questo, cioè gli abitanti della zona dove ci sono questi locali ci confermano che lì si sta tranquilli la sera e non ci sono quegli eccessi della movida che possono creare problemi. 800 24 0024, siamo all'ascolto, tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. No more pretending. Ed è il momento di dare il buongiorno anche a Carlo Gabardini. Ciao Carlo. Ciao Alessio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, come stai? Io sto bene, Carlo Gabardini che c'è ma non si vede, cioè voi normalmente non lo vedete, come non vedete neanche me perché ci sentite, però oggi non lo vedo nemmeno io, perché? Questo è il mio vero problema, che io non vedo te perché è la prima volta sembriamo che faccio due stupidi, la trasmissione in esterna, esatto. Sei al Festival del Giornalismo di Perugia. Esattamente, sono dentro l'hotel Brufani da dove ieri ha trasmesso anche Cruciani, quindi sono emozionatissimo. Sì. Esatto, ho anche visto in diretta la trasmissione ieri di Cruciani, però sono stato dentro solamente all'inizio perché c'era talmente tanta gente che voleva entrare che io sono uscito. Ti hanno buttato fuori. Esatto, anche perché mi hanno detto, ma tu tanto lo puoi vedere anche lo a Milano, vedi sempre, che te frega, giusto, giustamente. Senti, ma parliamo di cose, no, non dico serie perché sennò sono manca un quarto alle nove di sabato mattina, non esageriamo. Serie difficilissima. Intanto ti confesso una cosa. Dimmi. Che è molto più comodo per me, diciamo, trasmettere da Perugia, perché è il primo sabato che non mi sveglio alle 5 del mattino per venire a Radio 24, perché dormendo io dentro l'hotel l'albergo Brufani, sono semplicemente sceso. Devo intanto ringraziare l'unità esterna di Radio 24, benissimo, perché sono qui con Davide Cioccia e Paolo Corleoni, che in realtà loro mi hanno detto noi alle 8 siamo qui, e quindi io ho detto beh, ma allora assolutamente sarò qua alle 8 anch'io, e sono ovviamente arrivati prima loro e hanno organizzato tutto. Potevamo aprire il collegamento allora ancora prima, insomma, diciamo. I miei due ospiti oggi sono l'unità esterna, ovviamente. Non credere, Carlo, che questa cosa possa succedere in futuro. Cioè non è che adesso, siccome si è svegliato in albergo, c'era lo studio, dice dal prossimo weekend mi fate lo studio a casa mia. Devi riprendere a fare il percorso con il motorino. Resto qui a Perugia per sempre. Restano qui anche Davide Cioccia e Paolo Corleoni, quindi noi non torneremo. Se vuoi dirlo già a quelli di Radio 24, perfetto, perché è fatta a Perugia si sta bene. Senti, oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa. Tu cosa ne sai di tutto questo? Cosa ne ci so fai? Tantissimo, ne so tantissimo, e adesso arriveremo a parlare anche di quello, caro mio. Perché, allora, intanto volevo dire questa cosa qua. Sono a Perugia perché sto facendo una specie di mini tour il 30 aprile. Diciamo, quello che ha anche reso bella la mia settimana è che ho fatto il cosiddetto follow up, mi hanno detto che si chiama così, del video Marmellata e Nutella, che era il video, diciamo, sull'omosessualità che è stato pubblicato, è andato su Repubblica e ha fatto 300.000 visualizzazioni. Ho fatto il follow up che ho presentato a Torino il 30 aprile al Torino Gay and Lesbo Film Festival davanti a un pubblico di credo 900 persone, ed è stato molto emozionante. Però per noi italiani non parlanti inglese, cos'è il follow up? È il numero 2, diciamo. Bravo, Marmellata e Nutella 2. Così ci siamo. Non parlo di Nutella, parlo sempre di omosessualità ma non di Nutella. Dopodiché, sempre per questo video, sono qua a Perugia. In realtà, nonostante qua siano tutti giornalisti, io sono qui con, non ho il cartellino da giornalista ma ho il cartellino da speaker, perché ho fatto un panel l'altro ieri qui a Perugia. Perugia, che si chiamava Media and Marketing Treatment of the LGBT Community, ovvero la comunicazione LGBT. Ecco. È stato un bellissimo panel con Anna Paola Concia, Valerio Di Bussolo, Francesca Fornario, io, Flavio Romani, Anna Maria Testa, dove abbiamo parlato appunto di comunicazione LGBT, dove ho mostrato di nuovo questo video e dove si è parlato di come mai diventa difficile parlare di gaytudine in Italia e quali parole usare, qual è il modo per parlare di questo. E abbiamo parlato anche della campagna IKEA sull'omosessualità, della reazione di Giovanardi, insomma di diverse cose sulla gaytudine, si può dire, sì, si può dire, l'hai già detto. Esatto, dopodiché, in realtà, siccome è la prima volta che faccio addirittura l'inviato, e così sponsorizziamo la nostra iniziativa Inviati Cercasi, sì. Ci sto provando io a fare l'inviato, tu ieri mi hai detto, Carlo, però devi trovare anche un ospite, quindi io ero agitatissimo per questa cosa, perché qui ovviamente sono tutti importanti, diventa difficile dire scusi, io sono lo stagista di Radio 24, non è che vuole venire domani mattina così verso le 8, 8 e un quarto, facciamo colazione insieme, però ieri ero alla festa del Post, ho incontrato Giovanna Panchieri, che è la corrispondente da Bruxelles, certo, di Sky TG24, e quindi molto timidamente l'ho buttata lì, ma ho scoperto che è un ospite di Taddia, sempre su questa Radio 24, fra un'ora e mezza. Perché è il solito circolo di giornalisti, amici, degli amici che si incontrano, cioè guarda che è una cosa triste questa qua che stai dicendo, cioè siamo sempre gli stessi, ci ospitiamo, ci invitiamo, cioè io no, perché io sono qua a Milano, siete, hai capito? Cioè stai dando questa immagine della no, situazione. No, la cosa che mi ha fatto ridere è che mi hanno spiegato che avrei fatto una figuraccia pazzesca a rubare un ospite. Allora stamattina facevo colazione con Beppe Severnini e gli ho detto, non è che vieni in radio magari così a dire due parole perché così faccio bella figura, e mi ha detto, ma io vado da Taddia alle 10 pure, ho detto, vabbè, allora ma vado tutti da Taddia. Ma io ho un enorme ospite in realtà, oggi che è la giornata mondiale della libertà di stampa, è qui con noi Aldo Torchiaro, che è il portavoce di Media Initiative, che è la prima campagna, diciamo, che si occupano della prima campagna europea sulla libertà di stampa. Lui mi ha chiesto di firmare questa la chiamo petizione, certo, diciamo, e adesso faccio parlare lui, perché lui si sta occupando di questa bellissima iniziativa per cui, se riescono a raccogliere 1 milione di firme, passerà una legge molto importante per tutta l'Europa. Ciao Aldo. Molto bene, buongiorno a tutti. Allora, intanto grazie a Radio 24 per l'attenzione di questa mattinata, la giornata mondiale della libertà di stampa. Noi al Festival di Perugia la celebriamo nello spirito della trasmissione e quindi con un si può fare. Cerchiamo di fare qualcosa di concreto e di reale, nella fattispecie la petizione. Per tornare a quello che diceva adesso, sottolineavo questa cosa, nel senso che quindi abbiamo sia la libertà di stampa sia il si può fare, perché giustamente ieri parlando con Aldo Torchiaro ci si diceva, ma si può fare qualcosa di concreto per cambiare questa cosa? E lui dice sì, certo che si può fare, loro sono qui con un banchetto, poi adesso c'è anche un sito che adesso daremo, ma spieghiamo che cos'è esattamente questa petizione. Allora, intanto le motivazioni: noi siamo un gruppo di giovani che ha dato vita ad una ONG, siamo alcuni di noi giornalisti, altri comunque comunicatori, addetti al mondo dell'informazione. Ci siamo resi conto che c'è un problema enorme in Italia, ma in tutta l'Europa, che è quello della libertà di stampa. Questo problema si declina con temi diversi. Uno di questi è il mediacidio, noi lo chiamiamo così. Vuol dire che sempre più testate chiudono in Italia e in Europa, e che sempre più addetti al settore, al comparto, chiamiamolo così, della comunicazione, ahinoi, perdono il lavoro. Nell'arco del 2013 sono stati 1 milione in Europa. Che ricordiamo la chiusura della televisione greca, di quelle spagnole. Ma il bello è che sono stati 1 milione, quindi se tutti questi milioni di persone che hanno perso il lavoro firmano la petizione, la cosa è fatta. Quindi mi sembra è già una base di partenza. Sì, esatto. sì, magari. Sono già tanti a firmare. Ricordo il sito www.mediainitiative.eu. Abbiamo fatto la versione in italiano, così andiamo incontro a chi parla meno l'inglese. www.iniziativamedia.it. Non si tratta, tu dicevi Carlo, una petizione, non è esattamente l'ennesima petizione online, oggi ce ne sono moltissime. È un atto partecipativo di democrazia diretta che incide sulle istituzioni europee. Vuol dire, Trattato di Lisbona, che se 1 milione di cittadini europei firmano per noi su questo sito, bene, le istituzioni europee, la Commissione in primo luogo e il Parlamento europeo, sono tenuti a dare seguito a questa che è una proposta di direttiva. Ecco. E quindi diamo vita a una direttiva europea. Esatto, dal basso. È la notizia, va bene. In realtà che sì? È la notizia che ieri mi ha veramente stupito, devo dire. Io non sapevo questa cosa, che esiste una legge per cui se un milione di cittadini europei, quando ci si chiede che cos'è che fa l'Europa, se un milione di cittadini europei firmano lo stesso testo identico, il Parlamento europeo è obbligato a calendarizzare, dimmi se dico giusto, perché ieri me l'hai detto, ma dopo ho bevuto un sacco di vino, e quindi calendarizzare è l'unica parola che mi sono anche scritto su un foglietto, perché avevo paura di sbagliare anche alcune R così a caso. Però Carlo, è molto bella questa cosa, perché perlomeno io non lo sapevo. Carlo, basta che tu, che un milione, dimmi. No, siccome abbiamo due minuti, dobbiamo chiudere. Io voglio salutare e ringraziare Aldo Torchiaro. Poi se vuole rimanere lì nei paraggi, magari più avanti facciamo un'altra puntata con lui o con un altro. Gli ho promesso un sacco di cose che ovviamente pagherà Radio 24, delle cene, dei pranzetti. Non c'è problema. Ma resta qui. Carlo, invece tu solo firme, accettiamo solo firme. Carlo, invece tu sicuramente resti qua. Io voglio però chiudere il blocco come sempre a quest'ora, ascoltando anche un po', sentendo anche un po' di ascoltatori. Diamo voce ai nostri amici al numero verde 800 24 00 24, all'ascolto, se vogliono intervenire anche sul tema della libertà di stampa in Italia e in Europa, altrimenti sul resto. Anna da Teramo, buongiorno Anna. Buongiorno a voi, salve. Buongiorno. Io volevo parlarvi di una esperienza che conduciamo ormai dal 2011. Abbiamo costituito un'associazione culturale con dei docenti universitari, appunto allievi, studenti universitari, inoccupati e anche gente occupata, lavoratori. Abbiamo fatto la democrazia partecipativa. Non a caso poi già l'anno scorso abbiamo costituito insieme al Comune di Giulianova i comitati di quartiere, non avevano un regolamento, non avevano nessun approccio con questo tipo di democrazia, e adesso stiamo formando tramite appunto questi professori universitari i facilitatori per appunto condurre eventuali interessamenti a comitati di quartiere, a regolamenti, a referendum popolari, e fanno parte addirittura candidati sindaci. Bene, Anna, se dobbiamo chiudere, se vuoi lasciare un riferimento, un sito, qualcosa per chi è interessato, così ci salutiamo. Associazione Culturale Demos Teramo. Benissimo, grazie Anna. 800 24 00 24. Dopo il giornale radio con gli ascoltatori, anche sul tema della movida, anche da Genova. Dopo, ciao Carla, dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Precario il mondo, si fin qui è normale, ma sembra ancora più precario questo stivale che sta affondando dentro un cumulo di porcheria, e quelli che l'hanno capito vedi vanno via, e invece tu non l'hai capito, tu non l'hai capito, e stringi denti. E buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori, buongiorno da Milano da Alessio Maurizi e da Perugia da Carlo Gabardini. Carlo, cambiano tutti i colori. Non c'è Carlo? Abbiamo un collegamento, non abbiamo Gabardini, sarà andato a fumare la sua solita sigarettina tra una pausa e l'altra. Questa era Precario il mondo di Daniele Silvestri, il vostro si può fare, la vostra canzone, il vostro si può fare in musica, questa volta ce lo segnala Marco Nelli, il nostro ascoltatore, e continuate a scriverci così a vogliamo fare la colonna. Pronto? Ci sono Ale, ci sono Alessio, sono Carlo Gabardini da Perugia. Ma va? L'inviato da Perugia. No, buongiorno. Pensavo che fossi qualcun altro. Perdonami, perdonami, eccomi qui. Carlo, sentito, siamo partiti oggi dal tema della movida, cioè a Genova hanno dato il premio Buena Movida 2014 al locale meno fracassone, che è il locale Giardini Luzzati. Io vorrei che gli ascoltatori di Genova chiamassero l'800 24 00 24 per confermarci o meno che questo locale Giardini Luzzati è un locale dove insomma non c'è frastuono, dove i gestori sono attenti alla quiete dei residenti. Così come al secondo posto si sono classificate le cantine del Conte e al terzo posto il locale Britannia. Insomma, hanno votato quasi 2000 persone nel centro di Genova, però è già una cosa indicativa. Ci piaceva. Ma è un premio quindi di movida silenziosa, questo praticamente. Di movida rispettosa anche di chi ci abita, quindi con attenzione a chi fa troppo casino, magari insonorizzazione dei locali. Fanno anche la silent disco. Sai che esiste questa cosa di silent disco dove sono tutti a ballare con le cuffie e tutti sentono la stessa musica e ballano, ma fuori non si sente nessun rumore. Questo potrebbe essere candidato a vincere assolutamente. Sì, esatto, sì. L'abbiamo fatto con esterni a Milano, ma però Bello. È un progetto anche tedesco che si fa a Berlino, che si fa un po' in tutto il mondo. Interessante, così, perché no? Esatto. 800 24 00 24 anche per capire se questa può essere la strada per risolvere questo problema che ogni volta con la bella stagione si ripropone, cioè dei locali dove c'è un po' troppo casino, la gente che abita dintorno che si lamenta. Bisogna coniugare, non c'è niente da fare, le esigenze di tutti. Allora, della libertà di stampa abbiamo parlato con Aldo Torchiara, sì. Abbiamo fatto una bella introduzione. Carlo, è il mio primo ospite, sono molto emozionato. Com'è andata con il primo? È la prima volta che porto io un ospite, quindi sono in fibrillazione. È andata bene, siete stati anche nei tempi giusti, siamo riusciti a dire quello che c'era da dire. Questa petizione tu hai firmato? Adesso bisogna... vado a firmare dopo, perché mi infatti c'è qui Aldo Torchiaro che però non è cuffiato, che mi sta facendo segno, perché andrò a firmare, lui mi filmerà mentre firmo per far diventare virale questa cosa. Perfetto. Quindi spero che sia, è una petizione straordinaria, ecco, bisogna arrivare a 1 milione di persone. E quindi come ospite direi che domani porto mia mamma in radio, perché domani torno a Milano, comunque volevo dire. Ok, questo ci tranquillizza. Ricordiamo anche il fatto che oggi potete chiamare sempre al numero verde 800 24 00 24 per raccontarci cosa ha reso più bella la vostra settimana. Si vince anche questa settimana il racconto più bello, i biglietti per la mostra di Klimt a Milano, dunque approfittatene. Poi c'è il nostro contest, inviati cercasi, la parola che abbiamo scelto è cultura. Gabardini, qua tu dovresti essere cinema, teatro, musica, buone notizie sulla cultura. Ma io ormai faccio il giornalista, sono al Festival Internazionale del Giornalismo, mi sembra incredibile. Uno stagista che è già qui al Festival Internazionale del Giornalismo è solo grazie a Radio 24, diciamo. Che poteva Anzi, succedere ringrazio anche volta. Molto il Festival, perché grazie al fatto, sì? Infatti, pensano tutti che io sia un imbucato, cioè grazie al fatto che io sto facendo la trasmissione con Radio 24 mi pagheranno la stanza al Brufani, anche quella di stanotte, e sono felicissimo perché ho una stanza pazzesca dove si vede tutta l'Umbria, e credo che vedano anche un po' le Marche dalla mia stanza. Però scusa, sei partito dicendo che gli amici degli amici che si trovano al bar, al circolino, ospiti di una speciale. Adesso ci stai raccontando dei fatti tuoi della Camera dell'Albergo. Guarda che stai dando un'immagine del giornalismo, altro che petizione. Guarda, siamo proprio è un po' così. Esatto, anche perché penso che sia il giorno giusto per fare delle cose terribili, tipo a Milano, perché tutti i giornalisti sono qua a Perugia. Credo che a Milano non ci sia più un giornalista. Quindi è il momento buono, diciamo, per limonare con la persona sbagliata. Senti, tra poco, te lo ricordi Rossano Ercolini, il maestro di Capannoli, un grande personaggio, Certo. Lo ricordi? Avevamo sentito, pendevamo dalle sue labbra le 10 regole per rifiuti zero. Lui ha vinto il premio Nobel per l'ambiente. Tra poco lo risentiamo perché ha una nuova iniziativa. Tu puoi continuare a mandare qualche incursione da Perugia, però resti con noi, quindi la puntata la facciamo tutta insieme, ok? Ma devo andare a cercarti degli altri ospiti? Perché vado nel bar. No, stai qua. Se hai qualcuno che te li porti, se no stai qua con noi, perché sennò come facciamo? Ma certo che sto qua. Traffico. Mio sogno. A tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Dentro il mio maglione con un buco ascolto the best dei Temptations, passo in rivista amori amati sfortunati che sembravano e non sono mai stati. Poi tiro un sospiro e mi do del deficiente, perché lo so che della vita non si butta via niente. E allora lo Zero Waste Italy, il comune di Capannori e il centro di ricerca rifiuti zero del comune di Capannori lanciano una iniziativa, il Giro d'Italia delle buone pratiche a rifiuti zero, dedicato alle aziende che si impegnano per la riduzione dei rifiuti. Ne parliamo con, lo ritroviamo con grande piacere, Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europa. Buongiorno. Buongiorno. E buongiorno. Soprattutto il maestro di Capannori, come preferisce Rossano essere chiamato? Lei è un maestro di fondo, resta questo? Sì, io sono modestamente un educatore, diciamo, il maestro è una professione che mi piace moltissimo. E però è da 20 anni, 30 anni forse, in prima linea in Italia, davvero tra i primi a parlare di rifiuti zero, a fare campagne per diminuire i rifiuti, per capire come vanno trattati, come vanno gestiti, che i rifiuti non sono rifiuti ma sono, possono essere anche materie prime preziose da riutilizzare, una linea di tendenza che adesso si sta affermando. Però quando siete partiti voi, sembrava una cosa da pazzi, pionieri, che andavano contro tutti. Eh sì, però questo, se da un lato genera un po' di amarezza, prevalentemente crea soddisfazione, perché meglio tardi che mai. È bello quando si comincia ad aprire gli occhi, certo. E si ha anche la conferma che nel passato non eravamo noi a sbagliare, ma semmai erano gli altri che frenavano e fermavano questo inesorabile sviluppo. Rossano Ercolini, vincitore del Goldman Environmental Prize del 2013, quindi il cosiddetto premio Nobel. Bravo. Il premio Nobel del giusto? Dell'ambiente. Come abbiamo imparato l'altra volta. Sì, dicono così. Che ha anche raccontato tutto questo percorso, scusa Carlo, in un libro. Niente, prego. In cui racconta che ha incontrato Obama, che gli ha stretto la mano, che ha incontrato i miti che lui aveva conosciuto da lontano, dell'America, che su questi temi era avanti rispetto a noi, che adesso invece gli hanno tributato un omaggio incredibile. Sempre con questa sensazione, Rossano, appunto, di essere passato da outsider a quasi guida. Sì, è anche questa una sensazione piacevole, perché in fondo conferma che un cittadino comune, a tratti anche sbeffeggiato, nel migliore dei casi coccolato, ma in quanto comunque astratto, senza una visione operativamente concreta, a un certo punto acquisisce uno status e un potere che può mettere a giocare a favore dei cittadini comuni come lui. Quindi è un contributo molto interessante che io sto cercando di giocare a favore di comitati, associazioni, amministrazioni locali attraversando l'Italia. Quindi è una bella sensazione che da un anno mi crea, ecco, un effetto adrenalitico molto positivo, per cui pieno di energia nonostante che ci sia molto da fare. Carlo? Ci sono qui, sto ascoltando. Sentivo con che grandissima attenzione. Volevi dire qualcosa a Rossano, forse? No, volevo semplicemente salutare un premio Nobel che mi sembra è la lotta degli ospiti, giustamente. Io ti ho portato quello della petizione per la libertà di stampa, quello che se ne sta occupando, e tu giustamente mi rispondi con un premio Nobel, quindi mi sa che hai vinto anche questo giro. Adesso non so, vado in giro a cercare Oliviero Toscani, che ha appena fatto colazione, Direi che ha già dato ieri comunque. Rossano Ercolini, ci parli però di questa ultima iniziativa, questo Giro d'Italia a caccia delle aziende che realizzano buone pratiche, perché io faccio solo questo piccolo inciso: io ho capito questa cosa l'altra volta parlando con Rossano Ercolini, cioè che i rifiuti che non si riescono a differenziare non vanno accantonati, vanno studiati, vanno capiti, perché sono errori di progettazione. Ci disse questa cosa che per me fu una rivelazione l'altra volta. Bellissimo, un alunno molto, molto aperto e disponibile. Sì, diciamo che fino ad oggi noi abbiamo cominciato a provare il piacere di molti comuni che aprono le porte a rifiuti zero. Dopo Capannori, adesso siamo a 214 comuni italiani che hanno adottato la delibera a rifiuti zero, e che non tutti magari arriveranno fino in fondo alla meta, ma molti dei quali stanno lavorando benissimo. Allora, quest'anno abbiamo detto il 2014 deve essere l'anno in cui coinvolgiamo le imprese, perché il 70% del problema, 75%, può essere risolto, e in genere viene risolto dai cittadini attraverso la raccolta differenziata porta a porta, ma quel 20% che ancora rimane deve essere letteralmente studiato e messo nelle mani dei produttori. Quello che non è riciclabile, quello che non è compostabile, gradualmente deve essere riprogettato, perché è un errore di progettazione. Ecco il senso del Giro d'Italia, che tra l'altro è una metafora. Noi di Rifiuti Zero stiamo pedalando, noi facciamo parte di quell'Italia che respira e pedala e che ha bisogno di respiro. per far emergere il meglio che c'è dal nostro paese, che è incrostato da un vecchiume che parole nuove non è che liberino in superficie. Ma quando parla di aziende che devono riorganizzare il non compostabile, parla di tutte quelle cose che uno si trova quando deve differenziare, che non sa dove buttare, eh? Cioè che non sa se va nell'umido, che non sa se va nella plastica, quelle cose lì? Certo, è il cosiddetto usa e getta. Io faccio l'esempio che abbiamo studiato più a fondo, che è quello delle capsule del caffè. Non c'è alternativa, anche se tu fossi virtuosissimo, fissato, basta aprire la capsula per recuperare il fondo del caffè, questa capsula di plastica nobile polipropilene non è riciclabile, semplicemente per motivi normativi, perché non è considerata imballaggio. Ecco, questo è ciò che rimane sullo stomaco del sistema di gestione dei rifiuti. È un classico errore di progettazione. Perché dovrebbero essere compostabili, dovrebbero essere compostabili anche le capsule, perché non è che ci si può aspettare che un cittadino lavi anche la capsula del caffè, anche perché a quel punto uno rifà, diciamo, la moca napoletana e via. Ecco, giusto? Certo, a parte che purtroppo questo è un problema diffusissimo, soprattutto negli uffici, la pausa caffè dura pochissimo, quindi ecco, diciamo, il successo di questo prodotto che aumenta al ritmo del 15% all'anno. Un errore di progettazione, quindi andare a trovare sistemi, c'è la capsula ricaricabile 300 volte di EcoCapsula, c'è la capsula compostabile, insomma mettere al lavoro elementi più brillanti, perché mentre il 70-80% del problema dei rifiuti è stato risolto da moltissime comunità italiane, quello che rimane da risolvere deve essere risolto insieme alle imprese. A monte. Rossano, è vero che avete iniziato un dialogo con un produttore italiano, con la Lavazza, mi ricordo, avevate detto proprio su questo tema delle capsule? Sì, devo dire che le imprese ovviamente lo fanno in parte anche per marketing, per public relations, per far vedere che... Non facciamo il processo alle intenzioni. Però è anche vero, no, io mettevo le mani avanti per dire che io avverto anche sincerità, perché il termine rifiuti zero non è stato coniato da movimenti, è stato coniato dalla Toyota, che ha capito che più un processo produttivo è sporco, è inefficiente, e più produce scarti che poi costano. Più un processo produttivo è pulito, è meno costa e ecologicamente è più sostenibile. Quindi a lungo e medio periodo le imprese non possono non avere interesse a riconvertirsi e a scegliere le migliori pratiche. Tant'è vero che noi con questo Giro d'Italia, che sarà costituito da un nostro amico Danilo Boni, che in bicicletta elettrica percorrerà migliaia di chilometri, andremo a consegnare le nomination a 19 imprese di diversi settori, dal manifatturiero al commerciale, certo, all'impresa agricola, che stanno andando verso rifiuti zero. Ci sono ancora aziende che praticano il vuoto arrendere, ci sono aziende che consegnano il latte nel vetro. Ecco, noi vogliamo portare in superficie questa impresa pulita, è giusto, che aiuta l'impresa di realizzare rifiuti zero. Certo, è giusto riconoscerlo, è giusto incentivarlo, sarebbe giusto anche incentivarlo di più da parte forse anche del governo e delle autorità. Io voglio ricordare anche le tappe, lo faccio io, Rossano, di questo Giro d'Italia, poi se manca qualcosa, Milano dal 27 maggio, poi ci sarà Bolzano, Este, Marzabotto, Firenze, Greve in Chianti, Montefiascone, Roma, Napoli, Sorrento e poi terminerete a Capannoli, da dove è nato tutto. Le ho dette tutte forse? Perfetto. Sì, probabilmente ci stanno telefonando perché vogliono aggiungersi. Vorrebbero aggiungersi, perché effettivamente è un'iniziativa anche originale. Tenete conto sì, che in realtà poi intorno ci saranno decine di altre iniziative con il professor Paul Connett, con me stesso, con esperti come Enzo Favorino, quindi è davvero un mese ricchissimo di iniziative. Speriamo che i mass media, la stessa televisione, l'informazione che conta ed è pesante, diciamo, non dica così, Rossano, perché sennò sembra che noi siamo l'informazione che non conta, poveri. No, scherza. Noi siamo la radio e la televisione ha una forza diversa, però noi ci proviamo intanto. Rossano, vorrei chiederle anche una cosa, però, perché prima di salutarci del viaggio abbiamo parlato, mi sembra che questo governo, il governo Renzi, cioè per lei noi è un po' come se fosse, oltre che il premio Nobel per l'ambiente, anche il ministro ideale dell'ambiente. Come giudica un po' le prime mosse di questo governo, che si sta occupando di tante cose, il lavoro, il bonus sugli stipendi, eccetera eccetera, tutte le varie riforme grandi, però dell'ambiente non si parla. Cioè, si dice sempre che l'ambiente dovrebbe essere la green economy, no? Il volano anche di una ripresa. Non abbiamo la ripresa e non abbiamo la green economy. Benissimo, purtroppo ha messo il dito sulla piaga. Io a Renzi direi, senza polemiche, nel Job Act inserisci un piano nazionale per promuovere il riciclo. Noi in Italia abbiamo solo 5 piattaforme per recuperare i metalli preziosi dai telefonini e dai computer. Pensate che in 100 telefonini ci sono 15 grammi di oro. Noi abbiamo fatto questo esperimento a Capannori di produrre funghi dai fondi del caffè, e siccome i fondi del caffè rappresentano l'1% del totale dei rifiuti, abbiamo calcolato che con tutti i fondi del caffè italiani produrremmo funghi per un valore economico di 400 milioni di euro. Sono piccolezze nei confronti dei miliardi del bilancio del governo, ma questo per dire che dai rifiuti si può estrarre non solo materia prima e diciamo favorire l'ambiente, ma si può estrarre economia, Ercolini, pulita. Funghi al gusto di caffè, naturalmente. No, non hanno il gusto del caffè. Gusto nel senso che non a caso il fondo del caffè è chiamato l'oro nero. Viene sprecato, ma non nella coltivazione il fungo. No, funghi tra l'altro certificati proprio da un ente che ha detto che sono buonissimi, no? Certo, no, hanno un valore economico che arriva dai 4 anche 5 euro chilogrammo. Tenga conto che a fronte di 100.000 chilogrammi, di 100.000 tonnellate, che sarebbero il totale di quell'1% che ho detto prima, c'è un range economico potenziale, ovviamente è un calcolo molto semplice, si possono estrarre 400 milioni di euro e dare posti a probabilmente più di 100 posti di lavoro. Questo non mi sembrano bruscolini, mi sembra una notizia stupenda. Se sommiamo i funghi, sommiamo le piattaforme per recuperare l'oro, l'argento, il rame, le cosiddette terre rare, io credo che in fondo davvero promuoviamo economia. Parliamo di questo, per favore, Renzi. Rottamiamo gli inceneritori, per favore, promuoviamo il riciclo, promuoviamo il compostaggio, promuoviamo questa Italia che pedala e che respira e che ha bisogno di respirare come il pane. Grazie Rossano. Grazie noi mille. Però lasciamoci con questa promessa, che soprattutto per quanto ci riguarda, cioè risentiamoci ogni sabato, ogni domenica, facciamo il bilancio di come è andata la settimana, quale aziende avete trovato, quale aziende avete trovato disponibilità. Perfetto, che incontri avete fatto. La vostra sensibilità ci dà forza per lavorare, per scavare all'interno del mondo dei mass media, che non è facile. Grazie davvero, un abbraccione. Grazie Rossano Ercolini, io sarei a sentirlo per ore. Carlo, hai sentito? È vero. 100 telefoni sono 15 grammi d'oro. Ma infatti io che rompo telefonini come se fossero bicchieri di plastica, adesso vado a recuperarli, perché adesso ho capito perché mia mamma mi dice sempre: lascialo qua il telefonino rotto, me ne occupo io. Secondo me mia mamma ha trovato il modo per estrarre l'oro dai telefonini da sola. Tua madre legge e si informa, capito? Ha letto qualcosa e sapeva. 800 24 00 24. Adesso noi dobbiamo fare una pausa, abbiamo già qualche ascoltatore, facciamo uno prima della pausa, dai. Sentiamo Nadia dalla provincia di Rimini. Buongiorno Nadia. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Intanto grazie a questo signor Rossano di Capannoli, mi ha commosso il suo entusiasmo. Eh sì. Mi fa molto piacere, perché solleva il morale nonostante il tempo orrendo. Volevo soltanto dirvi una cosa a proposito delle capsule del caffè. Sì. La difficoltà a riciclare le nostre. Ma io so che la Nespresso le raccoglie e le ricicla. Come fa? Sì, la Nespresso le raccoglie e probabilmente in qualche modo le riutilizza. Io non lo so che fine fanno, però so che le raccoglie. Capisco che voi non lo sappiate perché non potete sapere tutto, ma questi signori che si lamentano perché anche le Coop hanno prodotto le capsule del caffè e si lamentano perché c'è uno spreco di cose, eccetera, eccetera. È possibile che non hanno modo di informarsi come fa la Nespresso a riciclarle? Non penso che la Nespresso nei suoi punti vendita raccolga le capsule per poi buttarle via lei. Ma questo punto interrogativo, non ne sarei così sicuro, però, perché mi sembra che invece le capsule, proprio quelle della Nespresso, sono nel senso che sono le più diffuse, e credo che uno dei grossi problemi sia proprio che non siano riciclabili, che poi loro adesso forse le riempono, le sciacquano e le riempono e poi tappano i buchini. Esatto. Nadia, poi dicono, grazie, credo che sia molto antieconomico raccoglierle, aprirle, svuotarle e poi grazie Nadia, non potremo mai svelare noi adesso in onda questa cosa qua, chiameremo a raccolta, potevamo chiederlo a Rossano Ercolini che lui sicuramente lo sa. Mia mamma riusa la stessa capsula 9 volte quando ci sono ospiti, forse è quello il modo di riciclarlo, però lo fa per risparmiare sostanzialmente. Il problema è che riusa anche il caffè che c'è dentro. Certo, assolutamente, a volte ne toglie anche un po' e lo usa per se stessa. Anche perché voi siete parecchi fratelli, no? Sì, quindi, siamo 5. Quindi, infatti, una capsula per tutte e 5, è sempre stato così. Giusto. No, ma mia mamma non usa le capsule, quindi. Brava la mamma di Gabardini. Senti, ci fermiamo un attimo, torniamo va tra bene. Poco con gli a ascoltatori. Dopo. A dopo. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. E avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Allora, tra poco Inviati Cerca, sì, avremo il nostro inviato sul tema della legalità di questa settimana. Invece per la prossima settimana ricordiamo che la parola chiave per l'ingaggio è cultura. Gabardini, cultura. Ah, quindi oggi non sono io l'inviato, giustamente non sono, no. Essendo ancora stagista io della radio, l'inviato anche perché, che ha vinto è un altro. Anche perché di legalità non so tu cosa avresti potuto parlarci, insomma. Forse più del contrario. Cosa stai dicendo? C'è mia mamma che ci sente? Illegalità? No, assolutamente. Ma tutte volte che parliamo di movida dici che sbeffeggi perché tu stai sempre lì a fare casino, eccetera. Quando parliamo, cioè, qualunque argomento mi sei sempre sul lato della protesta. No, e poi non posso raccontare niente perché tutto quello che è successo qui, diciamo, al festival lo racconto domani perché aspetto di venire via, perché sennò mi meno. Bravo. Se racconto quello che è successo alle feste qui al festival internazionale. E invece quando torni di Perugia, qua ce lo puoi raccontare tranquillamente. Esatto. Sono protetto. Un paio di ascoltatori prima di andare a Inviati Cerca. Abbiamo Dasco che ci chiama da Salerno. Buongiorno. Buongiorno, sono Ermanno da Salerno. Buongiorno. Volevo intervenire sul tema del riciclo. Noi ricicliamo qui in provincia di Salerno da sempre, da circa 20 anni facciamo riciclo a Cava di Tirreni, a Salerno. Il problema che abbiamo incontrato è quello sui componenti del packaging delle confezioni. Sì. Io penso che una normativa nazionale, meglio ancora europea se non internazionale, sul monocomponente del packaging possa essere ci vorrebbe, molto utile ci vorrebbe. Cioè deve essere o di plastica o di alluminio, infatti, per esempio, di un materiale a scartocciare una confezione di camicia dove c'è dentro di tutto, dal ferro al cartone, e insomma quindi il possibilmente che packaging sicuramente potrebbe essere una soluzione che aiuta il riciclaggio del materiale. Soprattutto se compostabile, diciamo, come componente, questo, cioè che siano quelli di mais, fibre di mais, che poi puoi mettere nell'umido, così uno non sta lì che deve scegliere, capire questo va qui, questo va lì, questo va là. Abbiamo bottiglie di plastica delle acque minerali che hanno ancora le etichette in carta. Sì, hai ragione. Potrebbe essere in monocomponente. È verissimo, Ermanno, dalla provincia di Salerno, che tra l'altro merita una menzione perché siete a un alto livello di raccolta differenziata. Questo degli imballaggi è uno dei temi sicuramente che c'è. Anche una differenziazione a livello europeo per evitare l'importazione di prodotti da paesi, diciamo, cosiddetti emergenti, che nel packaging e nell'utilizzo. Vabbè, ma non è che sono solo quelli esattamente non rispettano le nostre norme. Grazie Ermanno, ma non è che sono solo quelli che vengono da fuori Europa, perché sono anche cose prodotte magari in Italia, ha fatto esempio delle bottiglie d'acqua, ma le produciamo noi, eppure hanno quelle caratteristiche lì. Guglielmo da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. C'è un problema che spesso si trasforma in un problema gravissimo, è quello del legname lungo i fiumi. E invece si potrebbe trasformare in risorsa creando magari delle cooperative di disoccupati che lo vanno a recuperare. Sì. Lo trattano, per farne che cosa? Lo vendono, beh, ne fanno legname da camino, ne fanno pellet, capito? Giusto, giusto. E intanto puliscono i fiumi. E lei consideri, mi scusi, che ci sono dei consorzi che sarebbero preposti a questo, che si sognano neanche di farlo. E se lei provasse ad andare a prendere un po' di legnetti per il suo camino e una pattuglia della forestale la trova, c'è reato, la mettono in galera. Rischia di essere un reato. È un reato, e però il legname rimane lì. Altro suggerimento, grazie Guglielmo, questo anche ci mancava, il consorzio Fiumi e Fossi, per esempio. Sì, Alessio, volevo dirti che comunque via SMS ci stanno correggendo che l'Anespresso effettivamente ritira, ricicla le capsule. Ma guarda che io gliel'ho detto all'ascoltatrice, credo che fosse l'ascoltatrice, che sono al corrente, che ed è vero, ritira le capsule. No, ma infatti, l'ignorante sono io, sottolineavo che sono io che ho sbagliato. No, ma sai qual è il punto? Non si sa poi cosa ci fa con le capsule, se riesce a recuperare o se ne fa materiale per altre cose. Io questo non lo so. Un ascoltatore ci scrive: le capsule Nespresso sono di alluminio che è riciclabile e comunque si possono usare anche per fare bei gioielli. Credo che sia mia mamma, di nuovo. Va bene, adesso è il momento, inviati Cercasi. Anche questa volta abbiamo fatto ricorso ad un professionista, a un giornalista vero, anche se il nostro gioco è rivolto a tutti, anche giornalisti che vogliono diventarlo o che non lo sono, insomma, che hanno voglia di mettersi in gioco e di fare il loro racconto. Però sulla legalità abbiamo pescato un giornalista. Andiamo? Che è un collega del Sole 24 Ore, Nino Amadore. Buongiorno Nino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Voce nota, tra l'altro, degli ascoltatori di Si può fare. Dice: perché avete scelto uno del vostro giro del Sole 24 Ore? Trovatemi voi, tra le segnalazioni che ci sono arrivate in tema di legalità, qualcuno che parla così, in maniera così importante, con un libro che tu hai scritto, Nino, qualche mese fa, I Sovversivi, un libro uscito dalla Terza, in cui racconti le storie di persone normali che però al sud, in terra di mafie, sono storie rivoluzionarie, e veramente non c'era niente di più importante di questo. Allora abbiamo fatto uno strappo alla regola, perché noi cerchiamo di dar voce anche a chi giornalista non è, però qua Nino abbiamo dovuto tirarti tipo in ballo. Io tipo Gabardi. scusa, interruzione. Allora Nino, il libro è uscito a fine 2013. Sì. E tu narri le storie di chi? Ma io racconto un po' di storie varie, di professionisti, di religiosi, di imprenditori, di cittadini che provano a resistere, provano a ribellarsi, cercano legalità, chiedono il rispetto delle regole, insomma sono quelle storie che poi sono le storie di chi cerca la normalità. Una delle storie con cui tu inizi il libro è quella di Valeria Grasso, proprietaria di una palestra in un quartiere, raccontaci tu, a Palermo. Siamo a Palermo, credo. Sì, Valeria è la storia, incredibile. Iniziale, perché lei è proprietaria di una palestra a San Lorenzo, che è un quartiere di Palermo, il quartiere diciamo di Lo Piccolo, insomma il quartiere è una zona ad alta densità mafiosa, ad alta densità, ha una storia mafiosa anche quarantennale, possiamo dire, anche perché quello è un quartiere di nuova costruzione, cioè non è il centro storico di Palermo, è alla periferia. E lei ha questa palestra e a un certo punto si ritrova con una richiesta di pizzo, cioè con una richiesta da parte della famiglia locale di pagare il pizzo. Non solo, gli chiedono anche poi, lei cede la palestra, gli dicono di l'affitta e gli chiedono di riscuotere per conto della famiglia. Insomma, lei si ribella, denuncia, li fa arrestare, li fa condannare ed è un testimone di giustizia. Questa è una delle vicende simbolo, sai che c'è tutto sto dibattito, certo, sul testimone di giustizia. Lei si ritrova a essere testimone di giustizia con dei però bambini. Lì comincia l'altra sua odissea vera. Sì, la sua l'odissea vera, perché cambia città, va a finire, cioè la ospitano in un albergo, poi dopo un po' il ministero gli chiede il conto dell'albergo, gli dice qui hai consumato delle cose, le devi pagare. Quindi insomma una situazione molto assurda, molto particolare. La figlia più grande, sradicata dalla città, trasferita fuori, comincia ad avere dei problemi di ambientamento, di natura psicologica, vuole tornare qua a Palermo. E le chiede, insomma, di tornare. La vita, la normalità, cioè quella che potrebbe, che dovrebbe essere la normalità per chi denuncia, comincia a diventare una cosa molto complessa, anche difficile da gestire. Questo è il senso di questa storia, è la storia un po' di tanti testimoni di giustizia che poi si ritrovano a fare delle scelte anche radicali, difficili, ed essere poi, continuare a essere nel mirino delle mafie. Parli anche di scuola, parli anche di... Sì, la scuola è i capitoli a cui sono più affezionato sono quelli della scuola e delle librerie, cioè sembra quasi banale forse parlare di scuola e di librerie in un libro in cui si racconta insomma un generale o comunque una serie di episodi, di storie di resistenza alla mafia, però le scuole e le librerie a me sembrano poi l'avamposto, cioè quello, il luogo in cui tutto questo dovrebbe, cioè diventa, si concretizza, perché la cultura, la formazione, gli incontri, gli anticorpi veri alla criminalità. Esattamente, la scuola, io racconto la storia della Giovanni Falcone, la scuola dello Zen di Palermo, lì sono andato, ho trovato delle situazioni un po' preoccupanti e quando sono andato io. Ora recentemente il nuovo dirigente scolastico ha impostato le cose diversamente e con l'auspicio che facevo io nel libro di per esempio aprire la scuola il pomeriggio, per esempio fare altre attività, per esempio cambiare un po' l'atteggiamento, aprire la scuola che in quel posto è lo Stato, aprire lo Stato alla società, al quartiere, e sembra di capire che questo in qualche modo stia avvenendo, e tutto questo che è un fatto molto positivo, perché togliere i ragazzi dalla strada in un quartiere come lo Zen è una cosa molto importante, dargli poi degli indirizzi pedagogici, culturali e formativi significa sottrarre manovalanza alle mafie che lì, non dimentichiamolo, governano tutto, dalla gestione, cioè ci sono state diverse operazioni di polizia e gestiscono i servizi, l'elettricità, a volte addirittura l'assegnazione degli appartamenti, perché lì è un quartiere di case popolari, insomma una situazione molto complicata. Nino Amadore con noi, il suo libro I Sovversivi, in terra di mafia, la normalità e rivoluzione, edito dalla Terza, uscito qualche mese fa, l'abbiamo scelto oggi come nostro inviato per il tema della legalità. Nino, resta ancora un attimo con noi, facciamo una breve pausa per il traffico, poi so che volevi parlarci anche di una notizia più recente che riguarda il rapporto tra la mafia e anche la Chiesa, tra un attimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E siamo di nuovo insieme al nostro inviato questa settimana sul tema della legalità. E si tratta di Nino Amadore, che ci sta parlando in realtà del suo libro Sovversivi e delle storie che ha raccontato di persone normali anche che resistono alla mafia. Tra l'altro, Nino, mi viene da chiederti anche la tua vita, insomma, il tuo modo anche di resistere all'illegalità in Sicilia, scrivendo sui giornali ma anche scrivendo libri come questo. La tua vita, che impatto ha sulla tua vita questo tema? È un po' complicato, diciamo, nel senso che a volte ti ritrovi anche con le piccole cose a dover resistere a un certo modo di essere, di pensare, un certo andazzo. L'andazzo può essere anche quello, che so, dell'abusivo sotto casa che ha deciso, il quale ha deciso che lì lo spazio pubblico è diventato suo, oppure diciamo una serie di approcci, di questioni che possono riguardare la burocrazia, possono riguardare anche la presenza criminale nel territorio in cui ti trovi, con rapporti, con situazioni che possono a volte essere anche un po' così, diciamo, borderline, nel senso di devi cercare di mediare per non arrivare allo scontro assoluto, anche se poi allo scontro assoluto ci arrivi, perché non accettando in alcun modo quel tipo di impostazione si finisce sempre con avere un certo contrasto, un certo tipo di contrasto. Chi mi conosce sa che io sono un po' così, un po' rigido, e quindi mi evitano, fanno bene. Noi ti conosciamo, ti apprezziamo, ti abbiamo sentito tante volte farci dei racconti. Questa volta sei stato convocato, per usare un'espressione cara ai nostri amici dello sport di Radio 24, sei stato convocato per farci da inviato per il tema della legalità. Grazie mille, Nino Amadore, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Grazie Nino, ti ringrazio. Ciao. Anch'io, è molto bello qui, perché sono a Perugia all'Hotel Bufani e c'è anche il pubblico, bellissimo, che ti sta ascoltando, quindi è la prima volta che parlo in radio vedendo le reazioni del pubblico. E c'è anche un applauso che è partito. Grazie. Ciao. Grazie a voi. Ciao Nino. Adesso siamo quasi arrivati alla meta, siamo quasi in chiusura, però abbiamo ancora una cosa da raccontare. È un'iniziativa culturale, per l'appunto, che riguarda Napoli, il Maggio dei Monumenti. Restate con noi e scoprirete tra poco di cosa si tratta. Maggio dei Monumenti a Napoli, una iniziativa che va avanti da tanti anni, un'iniziativa nata molti anni fa con il allora sindaco Bassolino, che ogni maggio si ripropone monumenti, musei soprattutto aperti. Ne parliamo con Aurora Spinosa, direttore dell'Accademia Belle Arti di Napoli, che cura la comunicazione di questo evento. Non abbiamo moltissimo tempo, purtroppo, perché siamo quasi in chiusura. Ci racconti che cosa sarà possibile fare, vedere a maggio a Napoli? Dunque, buongiorno. Innanzitutto a tutti. Quest'anno il Maggio dei Monumenti è dedicato a Benedetto Croce, Storie e leggende napoletane, che è un testo che scrisse Benedetto Croce, e quindi, diciamo, sono stati fatti una serie di itinerari ispirati ai personaggi leggendari delle storie e delle leggende, tipo Colapesce, Coccodrillo, il Diavolo, il Teschio, lo Spiritello a cavallo. E la cosa bella di quest'anno è che, sì, sono stata coinvolta l'Accademia di Belle Arti con gli studenti e appena diplomati, che guidati dai loro docenti, ex docenti, hanno creato tutta una grafica abbastanza moderna e interpretativa dei testi di Benedetto Croce, e si sviluppano lungo gli itinerari questi banner oppure manifesti ispirati a queste nuove, diciamo, con un segno grafico molto leggero, spiritoso, in modo da far capire la valenza di Croce in questa città e farla entrare nel cuore dei napoletani. C'è un evento in particolare che ci vuole segnalare, uno su tutti che può essere così, diciamo, particolarmente meritevole di una segnalazione? Ma sicuramente percorrere il Spacca Napoli, no? Che da Piazza di Gesù porta fino a Cuore di Napoli, dove si snodano tutti gli itinerari delle chiese più importanti, dei palazzi più importanti del posto. E soprattutto, ecco, direi vedere la chiesa di San Domenico, uno dei punti cruciali, scendere per mezzo cannone, fare gli itinerari intorno all'università. Ecco, comunque zona medievale. Abbiamo potuto dare solo un piccolo assaggio, naturalmente. Io ringrazio anche Aurora Spinosa anche per la sintesi, perché siamo davvero in chiusura, il maggio dei monumenti, però appunto avete la possibilità, un motivo in più per andare a Napoli a maggio. Carlo Gabardini. Eccomi. Da Perugia. Beh, la tua vacanza è finita, domani rientri. È finita, anzi dobbiamo chiudere perché la colazione qua chiude alle 10 e quindi è compresa nella stanza, va devo bene. Andare a fare colazione. Volevo mi solamente aggiungere una ragione. Cosa in 10 secondi. Sì, della quale ne parlo domani meglio. Volevo dire a Carlo Taormina che io sono gay, sto benissimo, non sono malato per niente, sono grazie, felice. Grazie, dobbiamo chiudere. Grazie anche a Giorgio De Luca, a Peter Bescapè, a domani, ciao, buona giornata. Sì.